America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Havana, Mario Platero. Air Force One coming in for a landing in Havana at Jose Marti Airport. Oggi vi racconto del viaggio del presidente americano a Cuba, di questa svolta, di quando Air Force One è apparso ieri all'improvviso in fase di atterraggio sopra i tetti di povere case alle periferie dell'Havana. Pochi secondi dopo, alle 16:19 del pomeriggio, il presidente americano Barack Obama è atterrato e ha scritto la pagina di storia che tutti aspettavamo in ogni angolo del mondo. Obama si è affacciato a salutare dietro il portellone, poi è sceso con Michelle al suo fianco e la proteggeva da una pioggia tropicale improvvisa, scrosciante, con un grande ombrello nero. Dietro di loro le figlie Sasha e Malia ad accoglierli in suolo cubano, il ministro degli esteri Bruno Eduardo Rodriguez Parrilla, altri dignitari, l'ambasciatore Jeffries De Laurentiis, che in realtà non è ancora ambasciatore, incaricato d'affari nella nuova ambasciata perché manca l'approvazione formale del Senato. Poi di corsa l'Albergo Melia per un incontro con i funzionari della nuova ambasciata. Subito dopo una passeggiata nella città vecchia, Plaza de Armas, una sosta davanti alla statua di Carlos Emanuel de Céspedes, un vecchio possidente spagnolo che liberò i suoi schiavi nel 1868 e dichiarò l'indipendenza cubana. Ecco, devo dire che l'atmosfera qui a Havana è quella di sempre. Per chi è stato a Cuba, chi è stato a Havana, sa che passeggiando per strada di fianco ai caffè ci sono chitarristi che eseguono canzoni locali, appunto come Guantanamera che vi ho fatto ascoltare, ci sono mojitos a non finire, sigari cubani che in America mancano, e dunque è in questa atmosfera, in questo ambiente che il presidente americano a un certo punto ha continuato a camminare per strada, continuava a tenere l'ombrello aperto, procedeva un po' a tentoni evitando queste enormi pozzanghere sulla pavimentazione sconnessa fatta di San Pietrini. Poi c'è stata una sosta al Palacio del Segundo Cabo e la visita al Museo della Ciudad, dove nel cortile Obama si è fermato quasi in raccoglimento davanti a una statua di Cristoforo Colombo. Poi subito dentro una sorpresa, credo che l'abbiano preparata apposta per lui. Il primo quadro in mostra era un ritratto di Abramo Lincoln, dal museo alla cattedrale dell'Havana, per quello che è stato secondo me l'incontro più importante di ieri pomeriggio, un incontro solenne, emotivo, certamente anche molto amichevole, con il cardinale Jaime Ortega, che è stato un mediatore accorto, efficace, determinato, devo dire, fra Casa Bianca, Vaticano e governo cubano. Non c'è dubbio che Ortega è stato il personaggio chiave per la distensione, l'uomo che ha capito quanto il momento fosse maturo per cercare di cominciare ad avviare un cambiamento. Poi Obama, serata, è andato a cena in famiglia, una cena in famiglia al ristorante San Cristobal nel centro della città. Ma vorrei fare un passo indietro e farvi ascoltare Obama mentre parla ai funzionari americani a Cuba. Anche questo in fondo è stato un momento storico, perché in genere queste visite sono private, i giornalisti non sono mai ammessi, invece in questo caso sono stati ammessi i giornalisti, sono state ammesse le telecamere. Dunque voglio farvi ascoltare cosa ha detto il presidente americano. Eccolo. Well, as our ambassador or chief of mission just stated, it's been nearly 90 years. Questo viaggio è un'opportunità storica per impegnarci tutti con il popolo cubano, ha detto Obama, un incoraggiamento dunque a guardare in avanti, a continuare a lavorare. Ha ricordato come, e cito di nuovo le sue parole, l'ultimo presidente a venire prima di me fu Calvin Coolidge nel 28, arrivò con una nave da guerra in 3 giorni, mentre io ci ho impiegato solo 3 ore d'aereo. Come dire, i tempi sono cambiati davvero. Sul piano simbolico questo viaggio chiude molte storie, molti confronti centrali per l'evoluzione del secolo scorso, guerre in Africa, guerre in Sud America, il CE, la Baia dei Porci e così via, così via. Sul piano pratico in realtà cambia poco, perché il regime cubano resta e l'economia comunista, nel senso vero della parola, con le razioni, resta con gli stipendi sotto controllo. E dunque chiudiamo così, fra le promesse della storia che cambia con un presidente americano a Havana, la realtà di un regime che ha fatto il suo tempo, ma che, come tutti i regimi, continuerà a resistere forse fino alla rottura, il cambiamento. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, siamo a Cuba, l'atmosfera frizzante comunque c'è, l'auspicio per un futuro sereno e diverso è comunque inarrestabile. Dunque, dei Buena Vista Social Club. Chan chan. De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. Da La Habana è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!